Mi sembra fai tu e Pippi. E allora, buongiorno comunque. Ehi, buongiorno anche a te, ben sentito. Come va? Ma chi ce la faccio, dai? Piano piano è andando. Meglio così, sono contento. E voi, bene? Invecchiato più che altro. Certo, caldo, fuori. È un casino uscire. Il caldo c'è anche qua, Caldo è insopportabile. Cazzo, è tempo suo, Il caldo deve fare. E purtroppo mi ha sopportato. Io lo so. Ma è un casino quando c'è caldo, mamma mia. Ti fa sentire male, ti fa sentire quando c'è un bel caldo, io non lo sopporto proprio così tanto. A chi a me non mi fa respirare, qua è sempre il condizionatore acceso, qua c'è sempre il condizionatore acceso, ho la ventola, ho il condizionatore, notte e giorno, purtroppo così non lo sopporto. Si manca l'aria, così che bisogna mettere aria pura, aria fresca, se no è il da ragione. Scherza. Oia, la vecchiaia carogna. Già lo so, già la vecchiaia carogna, sì. Io sono a casa, sono, già lo sai, sotto tetto, quindi il caldo lo soffro più degli altri, lo soffro. L'abbiamo per un bel pezzo ancora, cazzo. E via. Cazzo. Ogni tanto tira qualche po' di arietta, poi smette e fa caldo di nuovo. E via. E vabbè, Antonio, dai. Vabbè, stiamo spazzolando, Antonio, ci sentiamo, dai. Buon provvedimento. Buona domenica in famiglia, vai, ci sentiamo, Antonio. Ehi, ciao, alle prossime, Giomari, stavi bene? Buon tutto, buon pranzo. Altrettanto, ciao.